Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto. Allora, c'è una regione in Italia che ormai da almeno 40 anni conosce la pervasività delle mafie. Ormai non si parla più di infiltrazioni, siamo chiari. Ormai si parla di una presenza radicata nell'economia illegale, ma anche nell'economia legale, perché ovviamente ricorrendo a prestanomi, figli o nipoti ci si ripulisce l'anima, il portafoglio e si fanno affari, ovviamente distorcendo il mercato e la libera concorrenza. Questa regione è l'Emilia Romagna e all'interno dell'Emilia Romagna c'è Reggio Emilia, che è una provincia in cui insomma soprattutto l'andrangheta la fa da padrona. Allora, noi ne parliamo oggi con chi? Con Enrico Bini, che è il presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, che per raccontare queste cose si trova un po' isolato. Buongiorno Bini. Buongiorno direttore, grazie. Ecco, dico bene o dico male che lei è un po' isolato? Eppure diciamo che quello che lei denuncia è la luce del sole, insomma. Sì, devo dire che l'inizio è stato più complicato, perché era un territorio, come dice lei, che è invaso da 40 anni, però non l'abbiamo mai riconosciuto, non l'abbiamo mai voluto riconoscere. Adesso un po' eventi che sono successi, iniziative importanti come quelle che stiamo facendo col sistema camerale, da una mano a far capire che forse siamo invasi da tempo da questi famosi colletti bianchi della borghesia mafiosa. Assolutamente sì. Ecco, siccome quando mi hanno parlato del suo isolamento e me ne hanno parlato personaggi autorevolissimi, degni della massima attenzione, io sono rimasto un po' stupito, perché dico, ma come, a Reggio Emilia chissà se lo sanno che le famiglie mafiose dominano ampie porzioni della criminalità economica. Allora le chiedo, ma chi è che l'ha isolata? Un po' tutto il territorio, cioè questa è la storia nostra, non è quella, perché infatti dopo la reazione che invece si è susseguita è stata una reazione forte, quindi questo territorio adesso si sta scoprendo, è chiaro che chi forse c'era una paura di fare male al territorio, di non riconoscere le cose fatte, che sono molte, è un territorio importante. Devo dire che anche Reggio Emilia è diventato un laboratorio da questo punto di vista, a differenza delle altre province vicine, che non si sta ponendo il problema come si sta ponendo. Assolutamente, eppure ne sono piene anche loro, pensiamo a Cesena Forlì, pensiamo a Bologna, pensiamo a Modena, ma pensiamo anche a Piacenza, insomma, sì. Le difficoltà ci sono. Senta, ma parliamo di un momento, per quello che lei può ovviamente dirci, di un settore delicatissimo che tutte le inchieste in giro per l'Italia stanno dimostrando come altamente inquinato, vale a dire l'autotrasporto. Che cosa ci dice su questo punto? Guardi, l'autotrasporto è uno dei settori che si presta di più alle infiltrazioni e al lavaggio del denaro sporco, che è molto facile, visto le norme che hanno liberalizzato, che hanno aperto i mercati, è facile comprare dei camion, metterli sul mercato con una committenza che non guarda e non è attenta a chi viene lì e si propone con dei prezzi stracciatissimi, e non si pone il problema perché questo lo possano fare. Quindi nel trasporto dall'alta velocità, che penso che sia stato il momento clou rispetto all'arrivo di questi personaggi malavitosi, dal trasporto sono diversificati nell'edilizia, perché l'espansione edilizia della nostra provincia è stata molto forte, e nel commercio. Ecco, però, quindi questa cosa è molto interessante, cioè lei dice il tratto dell'alta velocità, no, che ha unito Milano, Bologna, Firenze, Roma, poi giù fino a Napoli, forse nel 2153 si arriverà anche a Reggio Calabria. Ebbene, insomma, questo percorso dell'alta velocità ha portato trasportatori, autotrasportatori, che poi però sono rimasti lì a fare una concorrenza sleale, una concorrenza mafiosa in buona sostanza. Assolutamente, infiltrandosi e accolti perché non erano riconoscibili, perché non avevano la coppola e la lupara, ma certo. Sono professionisti capaci che sono ancora presenti. Il braccio armato dell'andrangheta è stato arrestato l'anno scorso a Brescello, per cui c'è personaggi che hanno gestito molti di quei cantieri e si sono infiltrati e hanno fatto affari anche con imprese locali, perché qualche dato sta emergendo, qualche provvedimento alla prefettura di Reggio l'ha presa, proprio di imprese che si sono lasciate contaminare da questi uomini di fango, quindi certo. Questo ha significato che sono arrivate imprese che avevano 5 camion, adesso ne hanno 200, 250, hanno macchine blindate, cioè quei segnali che io ho sempre detto, perché non li abbiamo visti? Perché quando uno gira con la macchina blindata in una provincia come la nostra non è insolito, uno dovrebbe insospettirsi un attimo. Quindi ecco, questo è un segnale interessante, perché di solito, voglio dire, queste ostentazioni fanno parte di un passato delle mafie che cercano invece di mimetizzarsi, invece nella provincia di Reggio Emilia, alcuni personaggi che tutti conoscono essere come mafiosi o vicini ai mafiosi girano con macchine blindate. Sì, ci sono anche questi casi e soprattutto gestiscono grandi parti dell'economia, hanno un tantissimo lavoro, perché il progredire, diventare così grossi quando imprese locali stanno vendendo i camion è significativo, quindi c'è, anche qua tentano di minimizzarsi, infatti non fanno episodi eclatanti, se non negli ultimi mesi è successo la bomba, l'incendio della macchina, ma prima sono sempre stati sotto coperta, perché il loro problema qua al nord è quello di non fa, anzi qua al nord forse sono bravi, hanno la faccia pulita, aiutano le proloco, aiutano le squadre di calcio, aiutano le amministrazioni, cioè sono disponibili, e quindi questo è più faticoso per individuarli o per isolarli, e poi hanno grosse quantità di denaro, quindi questo aiuta, cioè il denaro non puzza, quindi anche certo, sono presenti. Certo. Io ringrazio Enrico Bini per la sua testimonianza, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, torneremo ad occuparcene ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, caro Bini, e i nostri microfoni sono aperti ogni volta che c'è da remare per la legalità e contrastare le mafie, quindi grazie per la sua testimonianza. Dico grazie a Fabio Cantadori in regia e a Laura Fagin in redazione, e Roberto Calullo vi auguro una buona giornata.